Un benvenuto caloroso da parte della Biblioteca Provinciale Claudio Augusta, che come vedete è un posto tra scaffali, tra libri, all'interno di un centro Trevi dove ci sono altri servizi che offriamo alla comunità. E quello che organizza la biblioteca settimanalmente è appunto l'incontro con gli autori, con le autrici, per far conoscere romanzi, anche e soprattutto quando si parla di autori che raccontano il nostro territorio oppure che appartengono tra virgolette al nostro territorio. Abbiamo un po' un senso di possesso, no? Nei confronti dei nostri autori e delle nostre autrici. Perché? Perché questa biblioteca ha uno scopo di documentare anche la letteratura, la narrativa del territorio, ma non solo. Gianluca Battistella da anni lo conosciamo, lo seguiamo nelle sue pubblicazioni, ma soprattutto ci tengo anche a raccontare un episodio in cui è stato il protagonista e l'apripista, se così possiamo dire, delle nostre iniziative online, perché avevamo stabilito di presentare il suo ultimo libro A Visti Paralleli nella primavera del 2020, se non che, come tutti sappiamo, è successo quel che è successo, ci siamo chiusi in casa e alla fine abbiamo pensato, ognuno a casa propria si registra col telefonino un intervento di 10 minuti, il collega fa una foto qua in biblioteca della copertina, mettiamo tutto insieme e facciamo una sorta di montaggio e poi lo mandiamo su YouTube e vediamo come viene. Abbiamo trovato degli incoscienti coraggiosi che ci hanno dato ci hanno dato corda, quindi Gianluca si è offerto di partire con questo esperimento, Maria Pia da casa sua pure, io anche, e il collega Davide Cavusi, che adesso nel frattempo ha vinto un concorso, insomma alla fine ci siamo riusciti. È il primo video su YouTube di presentazione online che abbiamo realizzato, quindi ringrazio Gianluca perché si è prestato a questa follia, e poi dopo da quella volta lì siamo andati avanti con un'altra sessantina di presentazioni, perché tutti hanno preso a modello il suo coraggio e quello di Maria Pia, ha detto figurati, no, adesso anche noi vogliamo entrare in questo mondo sconfinato del web, e c'è ancora, no? Quindi volendo si può andare a vedere. Però abbiamo pensato che sarebbe stato bello prima o poi ritrovarci e quindi organizzare un'iniziativa in presenza, cosa che abbiamo pensato quest'autunno. Riprendiamo la stagione con tutte le premesse positive, non dico nel senso di Covid, ma proprio positive, di fiducia, ecco, nel futuro. E abbiamo pensato però di valorizzare non solo Abissi Paralleli, ma anche di riprendere altri libri che Gianluca ha scritto in questi anni, e quindi L'Inconfessabile e poi il primo che avevamo presentato qui, Basta un soffio, che è un insieme di racconti che vi faccio vedere. Però prima saluto Gianluca Battistella, che voi se conoscete, comunque un ispettore dell'intendenza scolastica. Non più. Ufficio giovane della cultura tedesca. Vai, allora, ecco, dell'ufficio giovane della cultura tedesca, comunque un collega della provincia e sempre nel settore culturale, quindi ci conosciamo da tempo. Poi è laureato in filosofia, ha fatto un dottorato di ricerca, insomma è una persona impegnatissima non solo da un punto di vista culturale ma anche da un punto di vista sportivo, e poi scopriremo alcune, vero? Ci sveli qualche cosa? Va bene. Vi presento Maria Pia Zanetti, un'attrice professionista che ci accompagna spesso in queste occasioni di lettura e dà un valore aggiunto a quelle che sono le nostre presentazioni, perché con la sua voce ci fa entrare bene nella narrazione, nel racconto e in quello che vi presentiamo. Quindi buon divertimento, tornate a trovarci. Vi dico anche che noi facciamo questo ogni settimana, e quindi se avete piacere il 30 settembre saremo qui alle 18 con un libro sull'autonomia, sulla storia dell'autonomia. Il 3 ottobre saremo qui con Ada Zapperi Zucker con il dizionario femminile e Ferruccio delle Cave.

non aveva una superficie uniforme. Quella massa indefinita si avvicinava sempre più e avvicinandosi a Riva la sua altezza aumentava. Non era soltanto l'effetto ottico di un oggetto in avvicinamento, quella cosa si stava alzando, proprio come fanno le onde avvicinandosi a Riva. E la riva ormai non era più tanto lontana. Poco più di un chilometro, forse. E quel muro cresceva, cresceva. Poi Franco sembrò riconoscere. Ma no. No, non poteva essere. Eppure, a ben guardare, sembrava proprio così. No, non era acqua. Il muro che lentamente si stava avvicinando era fatto di persone. Persone in carne ed ossa, una accanto all'altra, una sopra all'altra. Migliaia e migliaia di persone, milioni di persone. Una massa sterminata di persone che rotolava sul fondale di un mare che non c'era più. Ad un centinaio di metri dalla spiaggia l'onda umana raggiunse l'altezza di diverse decine di metri. Rallentò ancora. Ora si potevano perfino riconoscere i visi. Visi di uomini e donne disfatti dalla fatica, dalla fame, dagli stenti. Visi scolpiti dalla sofferenza e dal dolore. E dalla rabbia feroce. E incontenibile. Quell'onda spazzò l'intera costa dell'Europa meridionale e invase il vecchio continente come nessuno tsunami al mondo avrebbe mai potuto fare. Grazie Maria Pia, e credo veramente hai dato voce a questo testo in una maniera impressionante. Sì, davvero. Ed è impressionante anche la metafora che usa Gianluca per raccontarci la migrazione, questo aspetto impattante che ha sul Mediterraneo e su tutte le nazioni, popoli, paesi che si affacciano sul mare di mezzo. Quello che lega, comuna gli scritti di Gianluca è proprio questo impegno politico, questo pensiero politico con cui affronta, analizza le cose, un pensiero molto vissuto anche in maniera appassionata, con un'assertività a volte anche molto energica. Infatti dicevo prima Gianluca, sai, si nota questa necessità o questa attitudine ad affrontare di petto anche le situazioni, no? Quindi questa vita che ritorna anche nei racconti dei vari protagonisti è molto decisa, molto anche, diciamo, in un certo senso molto squadrata, no? Cioè, io penso anche ai titoli, guardavo i titoli adesso dei racconti della prima pubblicazione, Basta un soffio, allora appunto l'onda, la piazza, l'albero, cioè sono proprio termini, nomi, ecco, non c'è un'anticipazione, no? Quindi uno deve già lì estrapolare e farsi un'idea di quello che troverà all'interno di una narrazione, partendo però solo da una parola, da un sostantivo. Comunque dicevo che effettivamente Gianluca ha in questi suoi racconti e nei suoi romanzi sempre esprime, racconta una lotta umana, una lotta civile, politica, una lotta anche a volte spirituale, un conflitto forse anche a livello sentimentale. Ci racconti un po' questo fil rouge che ritorna, che collega, se è vero, perché magari siamo pronti anche a delle smentite. No, invece è proprio così. In genere scrivo di cose che in qualche modo mi stanno sullo stomaco, che non riesco a elaborare, a processare, che rimangono lì. E sono temi che ritornano, sono temi che in qualche modo si impongono. E penso anch'io che la politica nella sua accezione più ampia sia quello che mi accompagna a partire dai racconti, attraversa l'Inconfessabile, arriva anche all'ultimo romanzo. E in questo caso è l'immigrazione, mm-hmm. e anche quello ritorna, mm-hmm. perché se ricordi sì. la seconda parte di Abissi Paralleli, sì, anche sì, lì è, sì. molto, è molto presente. E è un tema che è molto presente, è un tema molto presente nel dibattito pubblico. È il tema per eccellenza che si presta alla manipolazione, è il tema che si presta alle varie propagande. È un tema su cui mi trovo a discutere e anche a litigare con persone che mi stanno vicine. Mm-hmm. Quindi c'è anche una componente emotiva molto forte. E poi c'è in riferimento a questo tema specifico, c'è una questione che io faccio fatica in qualche modo ad addomesticare, ed è il fatto che io, almeno sembra a me, poi posso anche chiedere un vostro riscontro, c'è un meccanismo di rimozione rispetto alle cause gigantesco. E l'immigrazione non ha a che fare solo, tra virgolette, con le guerre e con le carestie provocate dalla siccità. C'è tutto il tema del colonialismo e del neocolonialismo che ci riguarda oggi, non 300 anni fa. E quella cosa lì non c'è nel dibattito pubblico, né da una parte né dall'altra. Il dibattito fondamentalmente si riduce a apertura-chiusura, sì, a accoglienza-respingimento. Ma io non trovo da nessuna parte un'analisi, un'apertura della lente, e lo trovo molto, molto riduttivo, molto frustrante, e c'è forse questo anche un po' un filo conduttore in quasi tutto quello che scrivo, un po' il senso dell'impotenza e quindi della rabbia. La rabbia c'è molto, forse non tanto in questo racconto, ma c'è nell'Inconfessabile, ecco, c'è nei Abissi Paralleli, sì. E c'è tutta la questione, che non è semplicemente politica in senso lato, c'è la questione dell'estremismo. Mm-hmm. Sì. Ed è è uno dei temi che stavo quasi per dire mi perseguita, forse eccessivo, però insomma si dice che chi scrive ha dei temi ricorrenti, questo è sì. uno dei miei, sì, non sì, c'è sì. nessun dubbio su sì. questo. Sul discorso della scrittura come maniera tua intima di processare dei temi, degli argomenti o delle situazioni che ti cagionano dei pensieri, adesso non lo so se poi questo ti turba o meno, ma comunque il fatto del il tema della scrittura come, tra virgolette, cura è molto in auge e soprattutto anche molto efficace, no? L'hanno dimostrato. E c'è anche un'università ad Anghiari, no? Vicino in Toscana, dove studiano e operano continuamente nell'ambito dell'autobiografia per aiutare le persone, ma anche persone assolutamente che hanno voglia di raccontare o hanno voglia di riflettere su certi pensieri ricorrenti che hanno, e questo però ha dato poi vita a tantissimi racconti, a dei tesori che vengono poi anche diffusi e conoscono una pubblicazione, una diffusione anche in attesa. Tuttavia questo sì, si capisce che è una tua riflessione molto intima, anche questa che matura nel tempo, e infatti volevo capire anche che maturazione c'è stata, com'è cambiato il tuo modo di raccontare rispetto al tuo modo di approcciarti, insomma, alla scrittura, da Basta un soffio ad Abissi Paralleli, passando in mezzo all'Inconfessabile. Poi ti dico cosa ho colto io. Sì. La questione della cura la posso confermare, nel senso che non so, sarei prudente a definire la scrittura come terapeutica, perché terapeutica è un termine tecnico molto preciso, con una sua connotazione, però c'è molta spontaneità in quello che scrivo. Non sono mai stato il tipo di scrittore, e ammiro infinitamente quelli che lo fanno di mestiere, poi, che partono alle 8 di mattina, 8 ore al giorno e fanno quello. Non sono mai stato capace, e non solo perché ho un lavoro a tempo pieno, perché ho lo sport. Io sono convinto che se anche avessi tutto il tempo del mondo non riuscirei a farlo così. E quindi c'è un elemento di spontaneità. E come dicevo prima, ci sono i temi di cui non riesco a liberarmi, neanche volendo. Mm-hmm. Sulla spontaneità, effettivamente, quello che si coglie è la capacità di costruire dei dialoghi. Perché penso che nella narrazione e nel costruire dei racconti il dialogo sia difficile, no? Difficile da mantenere questo ritmo continuamente. Invece quello che ho trovato, che mi è parso in maniera anche evidente, che i tuoi dialoghi sono costruiti molto bene. E anche leggendo e ascoltando Maria Pia, vedremo poi anche con l'Inconfessabile se ci leggi alcuni passi, in particolare quel libro lì mi ha colpito molto per proprio tutta la storia, come l'hai costruita, è quasi un giallo, un noir, no? C'è una sorpresa finale che però insomma l'hai seminata un po' in giro piano piano, hai lasciato delle esche, ma arriviamo alla fine sì con una sorpresa. E questi dialoghi sono dei dialoghi veramente spontanei, però ben costruiti, quindi non è tutto lasciato al caso come vuoi farci credere. A me riesce più facile il racconto, riesce molto più facile, sì. E ho esitato a lungo prima di passare al romanzo, sono stato anche ampiamente incoraggiato da una carissima amica qui presente, e quello che si è forse modificato col tempo è il tentativo di aprire un po' la lente. Un racconto è una fiammata, è un lampo, sì. E il romanzo richiede un impegno diverso e non è una cosa che mi è riuscita facile. Infatti il primo romanzo breve, poco più di 100 pagine, si sono aggiunti dei temi, perché è vero, nell'Inconfessabile c'è il tema della politica assolutamente preponderante, c'è cioè un personaggio che nel libro non nomino ma che è facilissimamente riconoscibile, e c'è il tema del risentimento. Quello è un capitolo di storia italiana che io ho vissuto malissimo, accumulando un senso di frustrazione e rancore che si è dissolto solo perché, come dire, ha perso di importanza il personaggio in questione, ma io ho vissuto malissimo quell'epoca, che possiamo in qualche modo definire un ventennio, no? Dal 94 in poi. È un personaggio che in qualunque altro paese d'Europa sarebbe finito in galera a vederlo rappresentare me. Sono assolutamente convinto di questo. E invece nell'ultimo c'è per esempio il tema della follia. C'è il tema, ci sono due personaggi borderline che progressivamente scivolano verso la psicosi, la schizofrenia. È stata una sfida anche quella, perché io non sono né psicologo né psichiatra, quindi rendere plausibile tutta la sintomatologia senza però cadere nel tecnicismo è stata una... appunto anche molto abile, no? Mi sono fatto aiutare. Quando scrivere di cose che non si conoscono è sempre pericoloso. Stesso discorso per il confessabile, c'è tutta la questione dei cortei e dell'ordine pubblico. Io mi sono accorto scrivendo che stavo scrivendo di una cosa che non conoscevo. Ho avuto il privilegio, la fortuna, l'opportunità di farmi consigliare da un tenente colonnello dei carabinieri che per anni faceva il servizio d'ordine. Mi ha spiegato con la cartina di Roma sul tavolo come si fa un corteo qua, un corteo là, si chiudono le vie laterali, che cos'è la bonifica, quanti uomini si mettono dove, perché, quindi... Mi fa impressione nell'Inconfessabile questo sguardo che c'è sempre oltre da parte di uno di questi protagonisti che partecipa al corteo insieme alla sua fidanzata e facendole promettere che appena le cose dovessero complicarsi avrebbero preso il largo. Però lui riesce a guardare oltre, sembra quasi uno di questi corazzieri che accompagnano il Presidente della Repubblica, che hanno sempre questa visione sopra, no? Tu gli parli e loro non ti guardano mai in faccia perché stanno già guardando cosa succede, che poi sono le sue guardie del corpo. Mi era capitato per i volte di dover organizzare qualcosa con questi guardie del corpo, che sono poi ex corazzieri, e mi impressionava come guardavano oltre, no? E ho ritrovato questa, non so se te l'ha suggerito anche questo il tuo consulente. Questo dettaglio non me lo ricordo, francamente, anche perché è passato qualche anno. Che lui vede questi signori che si preparano. Ah beh, sì, beh, il momento, questo è capitato anche a me, però. Mm-mm. Allora, mettiamo in chiaro, sì, mettiamo in chiaro. Non ecco, sono mai stato, sì. non sono mai stato coinvolto in scontri di piazza, mm-hmm. E non mi sono mai ritrovato nella situazione di tirare cubetti di porfido, i famosi ciampitrini, contro qualcuno. E però alcune manifestazioni in cui ho osservato il servizio d'ordine, mm-hmm, con i caschi ancora in mano, indossarli, allacciarli, quello è un segnale evidente che c'è qualcosa in arrivo. Di solito erano i centri sociali che si stavano avvicinando. A Milano era Roncavallo. Mm-hmm. E io descrivo il protagonista, descrivo due cortei contrapposti, mm-hmm, e descrivo degli scontri di piazza. E ci sono dei sanpietrini che volano, mm-hmm, con degli esiti fatali. Io non sono mai stato coinvolto in vicende del genere, però confesso, infatti il titolo del libro è L'Inconfessabile, che non mi è costata fatica identificarmi con quel personaggio. In Abissi Paralleli ci sono, forse poi lo vediamo, forse dopo vediamo quanto tempo ci rimane, ci sono almeno due conversazioni accese, sono litigi, in cui io rappresento un conflitto, un dilemma, che si riduce a: noi possiamo cambiare solo le piccole cose quotidiane a portata di mano, contro no, bisogna agire comunque, a qualsiasi costo. E qualsiasi costo vuol dire anche al costo di superare la linea rossa della non violenza. Quel dilemma lì, quel conflitto, io lo lascio totalmente aperto, non do soluzione, sì, e non do soluzione perché non ce l'ho, non ce l'ho. E insomma, diciamo che i tuoi racconti, il tuo stile, la cifra è molto adrenalinica, no? Possiamo dire così, perché in effetti Gianluca stesso trasmette una certa adrenalina, no? E anche certe scelte, diciamo che qui arriviamo allo sport, sì, perché è un aspetto pacato da filosofo, no? Quindi la speculazione, la contemplazione, però poi di fatto questo discorso dell'estremismo, del porsi dei limiti, ma magari anche di superarli, potrebbe in un certo senso ritrovarsi in alcune scelte che fai da un punto di vista sportivo, possiamo dire così? Cioè, questa è una cosa che mi ha sempre colpito, della tua personalità. Sì, possiamo dirla. Mi verrebbe da dire che nelle cose che mi appassionano, le mezze misure mi annoiano. Non ce l'ho nelle corde, mi annoiano. L'altro che è proprio una noia mortale. Perché forse loro non lo sanno, ma lui fa delle robe incredibili. Ma no, è incredibile. Adesso devi dirci cosa combini. Ma sono neanche riuscito. Sabato cosa fai? Beh, c'è la moto adesso. Ecco. È arrivata la moto un anno e mezzo fa. Però vado piano, vado assolutamente piano, ci sono ampie testimonianze in sala che portano a confermare. Ma è ancora tranquilla la moto, poi c'è dell'altro. Sì, c'è l'arte marziale, ho qui due carissimi amici con cui l'ho praticata insieme per molti anni, e poi c'è il kite, è vero. È proprio così, le mezze misure mi danno un senso di noia, e penso che valga un po' per lo sport, mm-hmm, e un po' per la politica. Credo che sia proprio una questione caratteriale, non so da dove venga. Ma forse è anche una questione di avere chiarezza, no? Cioè, forse a volte anche la politica trasmette tanti messaggi che forse si avvicinano anche, sono difficili da distinguere perché sembrano quasi tutti uguali, e forse anche quello potrebbe essere... Sì, lì conta molto la formazione, insomma, adesso non la metto sul piano delle dottrine politiche perché non voglio assolutamente annoiare nessuno, però per formazione ho delle posizioni piuttosto radicali, possiamo dirlo, e peraltro ampiamente sconfitte. Chi legge, chi ha letto, le persone a me più care che hanno letto quello che ho scritto, mi dicono che c'è sempre un tono pessimistico e non posso negarlo, ma avendo visto quanto è presente il tema della politica nel mio processo creativo, in poche parole, senza pure entrare in tecnicismi dottrinali, non è semplice per chi la pensa come me avere uno sguardo ottimistico sulla realtà. Le mie idee sono uscite sconfitte ovunque, e non solo, e anzi direi neanche prevalentemente, perché è caduto il muro di Berlino e si è dissolta l'Unione Sovietica, perché non sono mai stati quelli i miei modelli, eppure è innegabile che le mie posizioni, le mie tesi, le mie teorie siano ridotte neanche a minoranza, a residualità. Sì, sì, insomma, siamo in un periodo molto difficile, tanto per cambiare. Direi che possiamo intanto spezzare un momento con un'altra lettura. Dimmi tu, fai l'inconfessabile. L'inconfessabile, a proposito di Cortei. È quello che più mi piace, l'inconfessabile. Confesso che... Dopo l'acqua? Gli uomini col passamontagna girarono l'angolo con via Milano, ognuno con una pietra in mano. Dietro a loro, a volto scoperto, tutti gli altri. A meno di 100 metri, migliaia di persone sventolavano le loro bandiere, scandendo ininterrottamente le stesse 3 sillabe. Libertà! Libertà! Libertà! Il gruppo con i sanpietrini in mano si avvicinò. 80 metri, 70, 60. Sui 2 marciapiedi alcuni curiosi che avevano seguito la manifestazione da semplici spettatori capirono cosa stava per succedere e si allontanarono in tutta fretta. Tra la folla con le bandiere nessuno sembrò accorgersi di niente, finché qualcuno si voltò e fece un cenno al suo vicino, che si voltò anche lui, poi un altro e un altro. Il coro, nel giro di qualche secondo, ammutolì. In quel preciso istante i carabinieri schierati di fronte alla scalinata del Palazzo delle Esposizioni strinsero le fila in perfetta sincronia, poi si spostarono in formazione compatta verso sinistra, ma l'accesso a quel lato di via Milano era totalmente ostruito dalla folla di manifestanti che per giunta cominciò a premere proprio verso di loro. Intanto gli uomini col volto coperto avanzarono di altri 20 metri, 2 passi dietro a loro, tutti quelli che li avevano seguiti, e di nuovo partì il loro urlo. «Fuori la mafia dallo Stato! Fuori la mafia dallo Stato!» Insieme all'urlo partì anche la prima pietra, e una seconda, e una terza. La gente cominciò a gridare e a spingere e a correre in tutte le direzioni. Altre pietre, altre grida, e ora le pietre volavano anche in direzione opposta. Un tizio col passamontagna ne prese una sulla spalla, un altro, un ragazzo sulla trentina a volto scoperto, ne prese una sul ginocchio e cadde a terra, urlando dal dolore. Una ragazza che gli stava accanto si abbassò per aiutarlo a rialzarsi e fu colpita anche lei all'avambraccio. Nel frattempo l'uomo che aveva divelto i primi sanpietrini era arretrato di una 20 metri e aveva estratto di nuovo il piede di porco, di nuovo si abbassò, di nuovo infilò la punta appiattita tra un cubetto e l'altro, di nuovo sollevò prima una pietra, poi una seconda, poi una terza. Decine di persone si accalcarono intorno a lui, ognuna chinandosi, per poi rialzarsi con 2 sanpietrini nelle mani. Ma anche dall'altra parte dovevano avere trovato il modo di scardinare il selciato, perché i sassi grandinavano in entrambe le direzioni. Dal lancio della prima pietra erano passati appena 4 minuti, Eppure si contavano già decine di contusi. Un signore sulla cinquantina che aveva ancora in mano la sua bandiera si accasciò sul marciapiede con il volto insanguinato, mentre uno degli uomini col volto coperto fu trascinato via dai suoi compagni, colpito anche lui al volto e appena capace di tenere le braccia attorno al collo degli altri due. Proprio in quel momento partì il primo lacrimogeno. Il candelotto rimbalzò a mezza via tra i due fronti contrapposti, alzando subito una cortina di fumo denso e penetrante. Piovve un secondo lacrimogeno, poi un terzo, ma le pietre continuavano a volare da una parte all'altra, ormai quasi alla cieca. Si sentivano urla, insulti, bestemmie e in lontananza le prime sirene. Nel frattempo, dopo due cariche di alleggerimento, i militari riuscirono a inoltrarsi nello spazio lasciato dalla gente in fuga e a frapporsi fra i due schieramenti. Posizionarono gli scudi sia frontalmente che verso l'alto, a testuggine. Le sassate, fragorose, rimbalzavano sulle protezioni. A dar loro manforte arrivarono anche i due blindati che avevano presidiato via Milano sul lato che porta verso il Quirinale, accompagnati subito dietro da almeno 50 carabinieri. Le poche decine di persone che si trovavano ancora all'incrocio fuggirono nella direzione da cui era arrivato il loro corteo e anche sul fronte opposto cominciarono ad arretrare. Quando i blindati, in mezzo al fumo, arrivarono a pochi metri dal punto in cui il selciato era stato divelto, i militari abbassarono gli scudi e caricarono in massa. Nel fuggi-fuggi generale, due uomini col volto coperto caddero a terra. I carabinieri li circondarono, tempestandoli di manganellate. Gli altri fuggirono a gambe levate verso via Panisperna. Giusto in tempo. Perché appena 30 secondi dopo, da via Palermo accorsero trafelati 60 agenti di polizia. Dopo qualche minuto il fumo dei lacrimogeni iniziò a diradarsi. Una signora di mezza età che aveva seguito tutta la scena dalla finestra di casa sua si mise le mani nei capelli, per terra, a pochi passi dal portone del suo palazzo, giaceva esanime un uomo. A proposito di precisione, ecco, no? nella descrizione. Una caratteristica anche della tua narrazione è quella di costruire delle storie che sono popolate di tanti protagonisti messi insieme. No, io trovo tante persone, donne, uomini. È molto popolato il tuo racconto. Ci dici come mai questa scelta e soprattutto anche se ci sono delle ispirazioni che ti alimentano con questa fantasia che hai? In genere quello accade scrivendo, nel senso che è come se si allargasse la platea. In genere c'è sempre un protagonista o una protagonista che ho già in mente, quasi fin da subito, quando parto. E invece mi sono accorto che spesso i personaggi secondari o si aggiungono o si arricchiscono, aggiungono sfumature e anche lì non sono mai partito con una, come fanno altri invece, con una struttura, con un'architettura del racconto ben definita. È sempre anche difficile, no? Sembra di imbrigliare un po' la fantasia. Sono metodi diversi, non so giudicarlo. Io fino adesso non sono mai stato in grado di partire così. È sempre stato uno sviluppo, anche lì con poi delle crisi, delle fasi di stanca, frustrazione e poi ripresa. Scusami, però tu hai già un'idea di come si sviluppa, cioè la storia, diciamo, almeno l'embrione di una storia ce l'hai? L'inconfessabile molto più dell'ultimo, per esempio, in Abissi Paralleli i protagonisti sono due. Sono due protagonisti, sì. Un uomo e una donna, che parlano entrambi in prima persona. all'inizio, nella prima versione, la protagonista non c'era, era un personaggio secondario. Ho deciso in un secondo momento di farne un personaggio speculare. E come mai? Ti sembrava più... Perché ho pensato che meritasse darle un peso maggiore, ma me ne sono accorto durante. Non ero partito con quell'intenzione. E peraltro è stata una delle sfide maggiori, perché il primo protagonista è uomo, insegnante di filosofia. Mi risultava piuttosto facile identificarmi con quel personaggio lì. La seconda protagonista è una donna, giornalista del Ministero dell'Interno, dell'ufficio stampa. E quella è una sfida molto più impegnativa. E io ancora oggi non mi sento di dire, non sono sicuro di essere riuscito a rendere il personaggio femminile plausibile, credibile, reale, quanto... In abissi paralleli. Questo mi è sempre rimasto il dubbio. Questo lo lasciamo a loro, se non hanno ancora letto. Ecco, no, questo è molto realistico e... Anzi, siccome non è che perdi tempo a raccontare, dunque questo, vai capelli, non è che ti metti lì a descrivere anche le scelte come se dovessi fare una scheda di un personaggio per un film, no? Che di solito bisogna dare tutti questi elementi in maniera tale che si possa costruire. No, uno legge e incomincia a capire di chi stiamo parlando, anche dalle azioni, dai dialoghi, insomma... Ma li caratterizza abbastanza. Non credo sarò mai in grado di scrivere un romanzo di 600 pagine. Non sono capace. Penso di non essere capace. E ho una macelata invidia per chi invece, da una parte, ha l'autodisciplina per dire: questo lo faccio di mestiere, è il mio obiettivo. Dedico 8 ore al giorno, o 7 o 6, o tutta una mattinata alla scrittura. Come si vede, insomma. Ah, mi viene in mente l'Allende, con cui tra l'altro ho avuto una bellissima... Non te l'avevo raccontato? No, raccontaci. C'è stato uno scambio di mail, molto, del tutto inaspettato. Dai. 2019, agosto, era convinto di aver trovato la contatto. No, a me mi ha dato la foto. Ah, ecco, sì. No, perché eravamo tra Basta un soffio, l'inconfessabile, e stavamo aspettando abissi paralleli, quindi no. No. No, molto brevemente, avevo letto un suo romanzo in un momento molto particolare della mia vita e non mi è mai successo, ma quella volta lì ho sentito il bisogno di scrivere all'autrice e ho trovato un sito ufficiale e quindi anche la mail. Mai pensavo che mi avrebbe risposto e invece mi è ritornata una mail lunga così, personalissima. Sì. Quindi ed è lei in quel romanzo lì che si chiama La Suma de los Días, non so se l'hanno tradotto in modo letterale, La Suma dei Giorni sarebbe la traduzione letterale, non è tra i suoi più famosi e lei descrive il suo approccio alla scrittura. L'8 di gennaio ogni anno lei entra nel suo studio, chiude la porta, stacca il cellulare, dà mandato ai suoi amici, familiari di non disturbare e lei entra ed esce con un romanzo. Che forte! Massima ammirazione, non so come si faccia. Chissà come ci si alimenta anche questa fantasia, però un filosofo secondo me ce la fa. Un filosofo ce la fa, perché sono loro che ci ispirano, no? Ispirano anche i fisici, se ci pensi. Tutta la scienza parte anche dalle vostre speculazioni, quindi direi che hai ancora tanto da scrivere e da raccontarci. E lui è anche poeta. È anche poeta, ecco sì, questo aspetto della poesia, quando è nato? È in concomitanza? No, precede... molto prima, no, io ho cominciato con la poesia. Allora, ancora le superiori, è stata la mia carissima insegnante, professoressa Munini di italiano, speravo fosse qua. Infatti l'hai citata anche, è vero. Sì, è stata lei a poi incoraggiarmi, a incanalarmi. No, la prosa è arrivata dopo, la cosa è arrivata dopo. E si è persa un po' per strada la poesia, devo ammettere che è qualche anno che non coltivo più. Ne parlavo prima, beh, è un peccato sì. Perché erano, io ho questo ricordo di poesie meravigliose. Tu le hai pubblicate queste poesie? Sì, ah, sì, sì. Dove credo che ci siano qua. Andare a vedere, perché questa cosa mi è sfuggita. Ero partito con un progetto, no, non lo chiamo progetto, con un'idea di romanzo successivo a questo. Mm-hmm. Mi sono insabbiato a pagina, non lo so, non mi ricordo neanche, 50, 60, arenato. E adesso c'è una mezza idea che non so ancora... Non ho ancora deciso se sono in grado di realizzare quell'idea lì. Quindi non voglio anticipare nulla perché non ha senso, non ho ancora trovato il coraggio di scalare la montagna. Al momento la vedo ancora molto alta e non so se mi fa bene cimentarmi lì. Tu sei abituato alle sfide, dai. Sì, sì, dai, abbiamo, ecco, quindi attendiamo... Questa rivelazione, dai. Vogliamo sentire o leggere qualcosa anche di Abissi Paralleli? Sì, incluso per quello breve, perché sono già 7:05. Ecco, quindi si svela anche il personaggio femminile che appunto, sì, come si diceva prima, non ha bisogno, come diceva lei, di tante descrizioni fisiche, no. Basta il modo in cui parla e sì. Basta una battuta, no? Conobbi Ilenia durante un normale viaggio in treno da Firenze a Bologna. Era seduta proprio di fronte a me. Io andavo a trovare Stefano per il fine settimana. Finita l'università, per vederci almeno una volta al mese, alternavamo Bologna e Milano. Lei invece aveva un corso di aggiornamento di 3 giorni, che nel giro di qualche ora avrebbe deciso di non frequentare più. Iniziamo a chiacchierare da subito e arrivati a Bologna. Ero già innamorato di lei. Gracile con il viso da bambina, ironica al confine del sarcasmo, incline al giudizio inflessibile e tranciante, persi la testa senza opporre resistenza. Quella sera cenammo insieme per poi camminare nei vicoli del centro fino a notte fonda. Quel fine settimana Stefano mi vide solo per mezz'ora. Il tempo necessario per salutarlo e spiegargli che il programma per il weekend avrebbe subito un drastico cambiamento per causa di forza maggiore. Gliela presentai un mese dopo e se all'inizio gli piacque molto, cambiò opinione non appena Ilenia rivelò il suo lato intransigente. Quando si parlava di politica o di attualità, Ilenia si faceva di colpo dura. Le sue idee di sinistra, che potevano facilmente apparire estremistiche, emergevano con una tale brutalità da ricordare gli anni 70. Era un aspetto che mi preoccupava, ma provavo a nasconderlo. Far finta che non ci fosse mi rendeva più sereno. Una volta, mentre eravamo in macchina, alla radio diedero la notizia di un gruppo di parlamentari che aveva firmato un disegno di legge per rivedere in senso restrittivo la legge 194 sull'aborto. Li fucilassero tutti uno per uno. Quando Ilenia pronunciò quelle parole, con il tono di chi non stava scherzando, Stefano rimase di stucco. Era felice nel vedermi euforico, ma quando gli raccontavo di lei, percepivo sempre un filo di prudenza e perplessità che cercava di mascherare per non mettermi a disagio. Capivo che qualcosa di Ilenia non lo convinceva del tutto. Una volta gli raccontai una scena accaduta in metropolitana. Ilenia aveva litigato in maniera furiosa con 2 tipi che discutevano della guerra in Siria. Uno dei 2 si era lasciato sfuggire questo commento. Cazzi loro, basta che non vengano qui a rompere i coglioni. Ilenia lo aveva insultato in modo così violento che se non l'avessi fatta scendere alla prima fermata, la situazione sarebbe degenerata in rissa. Stefano non apprezzò il racconto, anzi, nei suoi occhi vidi un disagio che mi disturbò. In fondo, è sempre così. Nulla irrita di più di chi vuole proteggerti da qualcosa che non vuoi vedere. Anche se questo, alla fine, ti raggiunge sempre. Ecco, se c'è qualche domanda, lasciamo un po' di spazio al nostro gentile pubblico. Se c'è qualche curiosità, qualche domanda che volete rivolgere al nostro autore. E se no ci facciamo due chiacchiere in libertà. Ci facciamo due chiacchiere, sì, certo. E posso chiederti, decidi tu di fare un racconto oppure appunto lo sviluppi man mano, trovi della linfa che ti aiuta a costruire una narrazione un po' più ampia, quando dici che apri gli orizzonti? Perché è difficile non anche è sempre uguale, non è sempre uguale e mi è successo per esempio con Il Confessabile che ero partito con un racconto ed ero partito anche con un mio racconto alla persona che poi mi ha incoraggiato a prendere una strada diversa dicendomi quella cosa lì che mi stai raccontando potrebbe diventare qualcosa di più del racconto e anche lì non sempre lo decido in anticipo, non c'è molto di pianificato a priori, almeno fino adesso è sempre stato così, l'idea che ho in mente adesso probabilmente se mai deciderò di provare a realizzarla con questa metodologia non funzionerebbe, lì dovrei procedere in modo più ordinato, più sistematico, sì. Per ragioni che adesso non posso spiegare, ma è esattamente ed è forse anche il motivo per cui sto esitando così tanto, perché è uscire dalla zona di comfort e non si fa mai facilmente. Sì, che ci sono delle cose dove tu devi costruire un'architettura, avere già un'idea della fine, come fare. Bene. Ti ringrazio tanto e anche te, è un piacere. Grazie anche a te, a voi, al è sempre un pubblico. Piacere leggere le cose. Sì. Grazie per essere venuti, davvero. Grazie a voi.